Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Per quanto negli anni l'efficienza dei pannelli fotovoltaici commerciali sia aumentata, meno del 20% dell'energia luminosa che un pannello fotovoltaico intercetta viene trasformata in energia elettrica. Il restante 80% viene disperso sotto forma di calore. Quello che accade in pratica è che il pannello si arroventa, cosa che per di più ha uno spiacevole effetto collaterale in quanto riduce ulteriormente l'efficienza energetica proprio del pannello fotovoltaico. Quindi ancora meno di quel 20% verrà convertito in energia elettrica. Sfruttare questo calore disperso sottraendolo al pannello avrebbe dunque un duplice effetto: quello di evitare lo spreco di energia, questo 80% buttato, ma anche quello di aumentare la resa dell'impianto fotovoltaico. Inoltre permetterebbe di razionalizzare alcuni costi, come quelli di installazione, che non variano molto se il pannello ha una funzione doppia invece che singola, e anche di sfruttare meglio la superficie disponibile. In pratica stiamo parlando di fondere in un unico oggetto pannelli termici e pannelli fotovoltaici. Da anni si lavora a soluzioni che permettono di sfruttare questo calore sprecato con architetture anche molto complesse, con sistemi mobili che inseguono il sole con grande precisione, che però risultano molto costosi. Una soluzione davvero originale, vorrei dire anche estremamente efficace, l'ha messa invece appunto un team di aziende italiane, aziende piemontesi guidate da Marino Piasintà. Parliamo di un sistema che unisce appunto fotovoltaico e solare termico anche alla pompa di calore. Il sistema si chiama FEE e sta ricevendo commenti entusiastici. Marino Piasintà è l'ideatore di questo sistema ed è in linea con noi. Buonasera Piasintà. Buonasera. Allora, qualche base credo di averla messa nel corso dell'introduzione. Ora veniamo al funzionamento del suo sistema, questo FEE. Il primo ingrediente sono questa sorta appunto di pannelli ibridi. Partiamo da qui. Dentro al pannello fotovoltaico, a contatto con la parte sottostante della cella fotovoltaica, c'è una scatola che contiene un serpentino in rame in cui facciamo passare del gas refrigerante. Questo gas refrigerante asporterà il calore dal pannello e farà produrre più corrente elettrica. Nello stesso tempo ci offre tutta l'energia termica del pannello, non solo quella prodotta direttamente dal sole, ma anche quella aerotermica dovuta alla superficie di scambio, che in un pannello è molto importante. Certo, certo. Quindi abbiamo proprio un mix tra pannello fotovoltaico e pannello termico, con la differenza che invece di passarci l'acqua ci scorre questo liquido refrigerante. E che cosa ve ne fate voi a questo punto di questo liquido refrigerante riscaldato dal sole e dall'aria? Allora, il gas refrigerante, questo è molto intuitivo, quando lo riscaldiamo possiamo usarlo come fonte di calore, come sorgente per un pompa di calore e riscaldare gli ambienti sottostanti in modo praticamente gratuito, perché la superproduzione elettrica che noi abbiamo ottenuto dai pannelli compensa il consumo della macchina. Allora, stiamo parlando, chiedo scusa, di un'applicazione invernale. Siamo in inverno. Invernale, esatto. Il fotovoltaico produce energia elettrica, produrrà anche una certa quantità di calore, questo gas che, refrigerante che si riscalda, e c'è una pompa di calore che utilizza l'energia elettrica per funzionare e preleva il calore sempre da questi pannelli, più o meno è così. Esatto, esatto. Quindi, ma l'energia elettrica prodotta in più dai pannelli fotovoltaici, perché li stiamo raffreddando, sì, è una quantità maggiore di quella che sta consumando la macchina, e a questo punto il riscaldamento è gratuito. È praticamente gratis, e questo per quanto riguarda il funzionamento invernale. Veniamo al funzionamento estivo, dove direi che c'è l'idea più originale, sì, in assoluto di questo progetto. Sì, sì. Cosa succede d'estate? Intanto su questa cosa l'abbiamo praticamente scoperta strada facendo, stando attento a tutte le fasi sperimentali e vedendo cosa accadeva in realtà, e su questa cosa sono impegnati molti studiosi in questo momento e ci stiamo anche divertendo. Perché è veramente un'idea molto originale, ecco, sì, proviamo a spiegarla. Allora, il gas refrigerante è un gas, il gas frigorifero in generale, ha la capacità di comprimersi, dilatarsi, cambiare di stato. All'interno di un normale frigorifero da casa avvengono una serie di fenomeni di fisica che sono anche bellini. Sì, certo. Ora, nel nostro caso particolare succede che il gas che noi mandiamo su evaporato, quando entra a contatto del calore, di un calore così violento, perché poi il pannello fotovoltaico è molto violento come attività di calore, si espande e spinge in avanti verso il compressore. In pratica durante la fase estiva abbiamo notato che i consumi calano di molto, proprio perché i pannelli solari si stanno comportando come se fossero dei compressori. Ovviamente c'è tutta una tecnologia, c'è uno studio anche di come sfruttare questo fenomeno, non è stato semplice, però il fenomeno che esiste fa sì che stiamo lavorando per riuscire ad avere dei sistemi di refrigerazione quasi gratuiti o gratuiti addirittura. Io parlo sempre in termini energetici, mai in termini denaro. Provo ancora una volta a sintetizzare brutalmente. Diciamo che un ciclo frigorifero, che è quello che serve per raffreddare, quindi per condizionare anche d'estate, ha bisogno da qualche parte che un gas venga compresso ed espanso, compresso ed espanso. Voi in pratica avete sfruttate questo calore di avanzo dai pannelli fotovoltaici per favorire la fase di espansione, che però è quella che costa di più dal punto di vista energetico. Esatto. Ecco, mi sembra che da questo progetto venga fuori un concetto interessante, perché è uno di quei progetti che, per come la vedo io, ci porta verso la seconda fase, diciamo, di questa partita della sostenibilità energetica, perché si sta passando dallo sviluppo dei singoli componenti alla messa a sistema di questi componenti. Qui ci sono tante opportunità anche per l'impresa italiana, no? Certo, è una sinergia. Tutto il mondo del fotovoltaico incontra tutto il mondo dei frigoristi, del condizionamento, e assieme si fa un pezzettino di strada per riuscire a costruire qualcosa di nuovo. Ecco, ma qui mi sembra importante spiegarlo, che il risultato non è la somma delle parti, ma è qualcosa di più, che viene proprio dal fatto che le parti vengono messe insieme secondo un criterio progettuale particolarmente intelligente. Perché gli ingredienti di base sono tutti ingredienti tutto sommato esistenti, no? Non credo che vi siate inventati i singoli componenti, o qualcosa ma non moltissimo, tutto sommato. Allora, il far funzionare a livello sistemico tutto quanto ho faticato. È complicato, certo. Faticato, non posso negarlo. Certo. Però noi abbiamo dietro le spalle delle tecnologie consolidate, che sono sicure e affidabili, dobbiamo semplicemente metterle assieme e scopriamo che poi nasce qualcos'altro che non è più una somma, è un esponenziale, è una moltiplicazione. È una sinergia. Grazie Marino Piasentà e in bocca al lupo allora. Grazie altrettanto, è un piacere sempre. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.